tua vita. E il tempo, sai, non passa mai lontano da te. La vita non è facile. Nel mio silenzio resterò, e finché respiro non avrò, ti aspetterò. Io sarò qui se tornerai. E poi sarai davanti a tutto. Aspetterò per dirti che io credo in noi. Sempre con me. Da qui, così, il mio sentiero sarai tu. Mi porterai dentro di te, se vorrai. Perché per me, lo sai, sei musica nell'anima. Io senza te credo in noi.